Il curato d'Ars e il demonio. Le persecuzioni diaboliche. Che vi sia un inferno al quale sono condannati gli angeli ribelli è un dogma della nostra fede cattolica. Il demonio, secondo questa, è un essere personale, vivente e non una finzione puerile. È vero che per lo più la sua opera in mezzo al mondo rimane nascosta, ma ciò non toglie che qualche volta, per sovrana permissione divina, essa si manifesti palesemente. Questo avviene specialmente in quei luoghi dove la sua influenza si sente più minacciata. Non potendo prendersela direttamente con Dio, da volgare malfattore si vendica, tentando di rendere vani gli sforzi degli operai del Signore. Per un periodo di circa 35 anni, cioè dal 1824 al 1858, il curato d'Ars fu in preda alle ossessioni esterne del maligno. Ah, se col togliere al santo il riposo e il sonno fosse stato possibile dargli il disgusto della preghiera, delle austerità dei lavori apostolici ed infine persuaderlo a lasciare la cura delle anime. Invece il demonio, nemico della salvezza delle anime, fu vinto. Le lotte di Don Vianney col demonio, ci dice Caterina Lassagne, contribuirono a rendere la sua carità più viva e più disinteressata. Il maligno non aveva previsto questo risultato. Quelle persecuzioni infernali ebbero inizio dal tempo in cui il Vianney pensava al progetto della provvidenza, per la quale aveva appena comperato una casa, cioè nell'inverno 1824-1825. Del resto, esse non furono che il seguito di violente tentazioni intime. Durante una malattia grave, dovuta a quelle che egli chiamava le follie della gioventù, lo assalirono tristi pensieri di disperazione. Si credeva ormai vicino alla morte e gli sembrava che una voce interna gli ripetesse con insistenza: «È giunto il tempo di cadere nell'inferno». In mezzo a queste pene ritrovò la pace dell'anima con un atto di confidenza di Dio. Per turbare la sua pace interiore, il demonio iniziò con artifici piuttosto ingenui. Il povero curato sentiva ogni notte lacerare le cortine del letto e, credendo si trattasse di comunissimi roditori, aveva collocato un tridente vicino al suo capezzale. Fatica sprecata. Più scuoteva le cortine per far fuggire i topi e più erano rumorose le laceraturelma il mattino seguente, quando egli credeva di trovare a pezzi le sue cortine, constatava che non erano neppure state toccate. Questo brutto scherzo durò un po' di tempo. Come si vede, il curato d'Ars dapprima non pensò di avere a che fare con il demonio. Non era un credulone e difficilmente prestava fede a cose straordinarie. Anche più tardi, in veri casi di ossessione che a lui furono sottoposti, si comportò con estrema prudenza. Gli chiesi, dice Don Dufour, missionario di Belley, che cosa pensasse di una persona che sembrava presa da un accesso di rabbia ogni volta che vedeva un prete o un crocifisso. Mi rispose: «C'è un po' di nervi, un po' di follia e un po' di grappino». Grappino era il soprannome con cui abitualmente designava il demonio. Quanto a lui, pur in mezzo a un lavoro inaudito, conservava una perfetta padronanza di sé e non poteva considerarsi un allucinato. Troppo serio, troppo nemico della menzogna per inventar frottole, non avrebbe mai parlato di ossessioni diaboliche se non fossero state reali. Tale era del resto la convinzione di chi l'accostava. Improvvisamente, nel silenzio della notte, si sentirono battere colpi alle porte e si udirono grida nel cortile della canonica. Potevano essere ladri che volevano impossessarsi dei ricchi doni offerti dal visconte di Ars, che erano rinchiusi nel grande cofano del solaio. Don Vianney discese coraggiosamente, ma non vide nulla. Tuttavia, le notti seguenti ebbe timore a rimanere solo. Da parecchi giorni, ha raccontato Andrea Verscher, il carrettiere del paese, un robusto giovanotto di 28 anni, Don Vianney sentiva nella sua canonica un rumore straordinario. Una sera venne a trovarmi e mi disse: «Non so se sono ladri, vorresti venire a dormire in canonica?» «Molto volentieri, signor curato, vado a caricare il mio fucile». Fattasi notte, mi recai alla canonica. Mi intrattenni col curato attorno al fuoco fino alle 10. «Andiamo a dormire», disse egli finalmente. Mi cedette la sua camera ed egli si ricò in quella accanto. Non mi addormentai. Verso l'una udii scuotere con violenza il picchiotto e il saliscendi della porta che dà sul cortile. Nello stesso tempo, contro la stessa porta, venivano battuti colpi di mazza, mentre all'interno della canonica rimbombava un fragore di tuono, come se rotolassero parecchie vetture. Presi il mio fucile e mi precipitai verso la finestra. L'aprii, scrutai, ma non vidi nulla. La casa tremò per circa un quarto d'ora, ed anche le mie gambe non erano ferme. Ne ebbi per 8 giorni. Appena incominciato il rumore, il curato aveva acceso una lampada ed era venuto da me. «Avete sentito?» mi chiese. «E come no? Per questo mi sono alzato e ho preso il fucile». La canonica tremava, come se ci fosse un terremoto. «Avete paura?» mi chiese ancora il curato. «No», dissi, «non ho paura, ma mi tremano le gambe. Sta per cadere la casa». «Che credete che sia?» «Credo che sia il demonio». Quando fu cessato il rumore, tornammo a letto. La sera seguente il curato venne nuovamente a pregarmi di ritornare da lui. Gli rispose: «Grazie, signor curato, io ne ho già abbastanza». Più tardi, alla provvidenza, Don Vianney, ricordando l'imbarazzo della sua prima guardia, rideva assai della sua paura. «Povero Verchères», diceva alle direttrici, «tremava tutto col suo fucile. Non si ricordava neppure di averlo con sé». Visto il rifiuto del carrettiere, il curato si rivolse al sindaco, che mandò suo figlio Antonio, un giovanotto di 26 anni, e Giovanni Cotton, il giardiniere del castello di Ars, che aveva 2 anni di meno. Per un paio di settimane i due guardiani si recavano alla canonica dopo le preghiere della sera. «Noi non abbiamo sentito nessun rumore», riferisce Giovanni Cotton. Non così il curato, che dormiva in un appartamento vicino. Più di una volta il suo sonno fu disturbato e ci interrogava dicendo: «Ragazzi, non sentite niente?» Noi gli rispondevamo che nessun rumore giungeva fino a noi. Tuttavia, a un certo punto, udii un rumore simile a quello che produrrebbe la lama d'un coltello che batte colpi rapidi su un secchio. Avevamo attaccato i nostri orologi alla parete della sua camera. «Non riesco a capire», disse il curato, «come mai i vostri orologi non si siano rotti». Parecchi altri giovani, tra cui Edme Scipio, l'agente d'affari del castello di Ars, montarono la guardia nel campanile, ma anch'essi non sentirono nessun rumore sospetto. Soltanto, al dire di Maddalena Scipio, la figlia di Edme, una notte videro una lingua di fuoco che si abbatteva sulla canonica. Donde provenivano dunque quei rumori misteriosi? Don Vianney, preoccupato ma prudente, non osava ancora pronunciarsi. Una notte che era caduta la neve risuonarono delle grida in cortile. Era come un'armata di austriaci o di cosacchi che parlavano confusamente una lingua che egli non comprendeva. Il curato d'Ars aprì la porta. Sul chiarore della neve, che si distingue anche nelle notti senza luna, non vide nessuna traccia di passi. S'era fatta una convenzione ormai. Non si trattava di voci umane e neppure di qualche cosa di angelico o di divino, ma di qualche cosa di orribile, di infernale. Del resto, il brivido di spavento che provava rivelava sufficientemente l'identità del misterioso personaggio. «Pensai che era il demonio, perché ne avevo paura», confessò più tardi a Monsignor Devi. «Il Signore non fa paura». Perciò, comprendendo che non c'era nulla da fare con forche e fucili, rimandò le sue guardie e rimase solo a combattere. Si trattò di un vero combattimento e per sostenerlo il santuomo non aveva altra risorsa che la sua pazienza e le sue preghiere. Qualche volta, ha raccontato il suo confessore, gli chiedevo come faceva a respingere gli attacchi. Mi rispose: «Mi rivolgo al buon Dio, faccio il segno della croce e rivolgo qualche parola di disprezzo al demonio. Del resto ho notato che il rumore è più forte e gli assalti più insistenti quando il giorno dopo deve venire qualche grande peccatore». Questa constatazione lo consolava nelle sue insonnie. «Nei primi tempi avevo paura», confidava a Monsignor Merbot, uno dei suoi amici e penitenti più fedeli. Non sapevo che cosa era, ma ora ne sono contento. Vuol dire che la pesca del giorno dopo è sempre eccellente. Il demonio mi ha molto disturbato questa notte, diceva ancora. Domani ci sarà molta gente. Il grappino è una gran bestia. Si incarica di avvertirmi dell'arrivo dei grandi peccatori. È in collera. Tanto meglio. Ore di insonnia e di lotta. Siamo giunti al tempo del lavoro sovrumano, quando Don Vianney passava la maggior parte delle sue giornate in confessionale. Pur essendo a sera già estenuato, prima di coricarsi leggeva alcune pagine della vita dei santi. Approfittava di questo tempo anche per infliggersi, a intervalli molto ravvicinati, sanguinose penitenze. Quindi, steso sul povero pagliericcio, cercava di riposare. Finalmente stava per assopirsi. Improvvisamente sobbalzava, strappato dal sonno, da grida, da richiami lugubri, da colpi formidabili. Si sarebbe detto che un martello da fabbro sfondasse le porte della canonica. Subito, senza che si muovesse il saliscendi della porta, il curato d'Arse si accorgeva con orrore di aver vicino il demonio. «Io non lo invito a entrare», diceva Don Vianney tra il faceto e il seccato, «ma egli entra lo stesso». E cominciava lo sbaccanio. Lo spirito del male rimaneva invisibile, ma la sua presenza non era meno sensibile. Rovesciava le sedie, scuoteva i pesanti mobili della camera. Gridava con voce terrificante, «Vianney, Vianney, mangia patate! Ah, non sei ancora morto! Un giorno ti avrò!» Oppure, mandando grida d'animali, imitava i grugniti d'un orso, le urla d'un cane, si slanciava sulle cortine del letto che agitava furiosamente. Altre volte, ha narrato fratello Atanasio, secondo i racconti di Caterina Lassagne e i suoi ricordi, il demonio imitava il rumore di un martello che conficca chiodi nel pavimento o lega una botte con cerchi di ferro. Batteva il tamburo sul tavolo, sul camino, sul secchio, oppure cantava con voce stridula. E il curato ci diceva poi scherzando, «Il grappino ha una voce molto sgraziata». Don Vianney più volte ha sentito una mano che gli sfiorava il viso o come dei topi che gli correvano su tutto il corpo. Una notte ha udito il rumore come d'uno sciame d'api. Si è alzato, ha acceso la candela e è andato a scostare le tendine per scacciarle, ma non vide niente. Un'altra volta il grappino tentò di rovesciarli dal letto tirandogli il pagliericcio. Spaventato, Don Vianney fece il segno della croce e allora il demonio lo lasciò tranquillo. Una sera si era appena coricato quando improvvisamente gli parve che il letto, che era molto duro, diventasse molto soffice, tanto che ci si affondava come in un piumino. Contemporaneamente una voce ironica ripeteva «Forza! Coraggio!» e altre parole derisorie per spingerlo alla sensualità. Don Vianney, spaventato, fece il segno di croce e tutto fu finito. Lo spirito delle tenebre, dotato di molta inventiva nelle sue fastidiose gherminelle, sembrava moltiplicarsi o scorrazzare per tutta la canonica. Nella camera un sozzo volo di pipistrelli rasentava le travi, s'aggrappava alle tendine del letto. Sul solaio, per ore intere, si udiva lo scalpiccio continuato, esasperante, d'un gregge di pecore. Sotto la camera, nella sala da pranzo, rintronavano i calci d'un cavallo che si levava fino al soffitto per ricadere con le quattro zampe sul pavimento. Queste farse infernali spossarono il povero curato d'Ars, ma non riuscirono ad abbatterlo. Nonostante le terribili notti insonni, quando l'orologio del campanile suonava a mezzanotte, Don Vianney pensava ai penitenti che lo attendevano. Si alzava prontamente e discendeva in chiesa, ma a prezzo di quale sforzo? Veniva alle riunioni di canto per incoraggiarci, riferisce una sua parrocchiana. Qualche volta era tutto pallido. Gli domandavamo se era ammalato. No, rispondeva, ma il grappino me ne ha fatte tante che non ho chiuso occhio in tutta la notte. Qualche volta il sinistro compagno teneva col Vianney un atteggiamento poco rassicurante. Un giorno, racconta un missionario di Pont d'En, il curato, facendomi salire dinanzi a lui per la scala, «Amico mio», disse, «non è come ieri che c'era il grappino a salire dinanzi a me. Sembrava che portasse gli stivali». Un mattino del dicembre 1826, molto prima che l'aurora spuntasse, il curato d'Ars partiva a piedi per Saint-Rivière-sur-Mognain, dove doveva predicare un giubileo. Mentre andava a piedi, recitava il rosario. L'aria attorno a lui era solcata da sinistri bagliori. L'atmosfera era come di brace e da ogni parte della strada i cespugli gli sembravano di fuoco. Era Satana che, prevedendo i copiosi frutti di bene che Don Vianney avrebbe prodotto nelle anime, lo seguiva passo passo, avvolto nel fluido ardente che lo divora, cercando di spaventarlo e di scoraggiarlo. Egli, tuttavia, seguitava per la sua strada. I testimoni che hanno visto e udito. Il curato d'Ars, che taceva tutto ciò che gli potesse attirare elogi, raccontava volentieri anche in chiesa, durante i suoi catechismi, i tiri che gli giocava il maligno. Si sapeva che Don Vianney sarebbe stato incapace di raccontare menzogne e che, nonostante le sue inaudite fatiche, serbava un perfetto dominio di sé. Tuttavia, più d'uno, anche tra i suoi familiari, avrebbe potuto esigere altre prove oltre alla sua parola e la testimonianza ormai lontana del carrettiere Verchères. Don Raymond, che fu per 8 anni suo aiutante, Don Tocanier, che lo fu per 6 anni, non udirono mai rumori straordinari. «Sentite, è il grappino», diceva qualche volta a Don Raymond, ma questi invano tendeva l'orecchio. Perché dunque il curato d'Ars era l'unico a sentire i rumori infernali? Perché le vessazioni di Satana prendevano di mira solo lui? Tuttavia, in circostanze eccezionali, anche altre persone veramente degne di fede poterono constatare da sé quelle infestazioni del nemico. Verso il 1820, Don Vianney aveva trasportato dalla chiesa in canonica una vecchia tela rappresentante l'Annunciazione. Il quadro era appeso a una parete della scala. Ora il diavolo si acconì su quell'immagine e la coprì di immondizie. Si dovette levarla da quel posto. Molti, scrive il Monin, furono testimoni di quelle odiose profanazioni, o almeno poterono osservarne le tracce sensibili. Don Renard dice di aver visto quel dipinto tanto indegnamente sporcato che la figura della Vergine era irriconoscibile. Margherita Vianney, chiamata da bambina Goton, veniva di quanto in quanto a far visita al suo santo fratello. Durante una delle notti che la passò alla canonica, udì il curato d'Ars uscire dalla camera prima dell'una per recarsi in chiesa. Pochi minuti dopo, racconta lei stessa, scoppiò vicino al mio letto un rumore violentissimo, come se 5 o 6 uomini avessero battuto forti colpi sul tavolo o sull'armadio. Ebbi paura, mi alzai ed ebbi abbastanza coraggio per accendere una lampada, ma vidi che tutto era perfettamente in ordine. Forse è stato un sogno, pensai. Perciò mi ricoricai, ma appena fui a letto si ripeté lo stesso rumore. Questa volta ebbi ancor più paura. Mi vestii in fretta e corsi in chiesa. Quando mio fratello tornò in casa, gli raccontai ciò che era accaduto. Figlia mia, replicò, non bisognava aver paura. È il grappino. Non ti può far nulla. Tormenta così anche me. Qualche volta mi prende per i piedi e mi trascina per la camera. È perché converto anime al buon Dio. Una persona di Glisé nel Lionese, stabilitasi ad Ars nel 1832, la signorina Maria Ricotier, dalla sua casa avvertì dei rumori che le parvero venire dalla canonica. Una volta specialmente il rumore le parve più straordinario e il mattino dopo andò a parlarne con Don Vianney. «Ho sentito anch'io», rispose quello, «probabilmente sono peccatori che si dirigono verso Ars». Il signor Amiel, gessaio a Montmerle, diceva un giorno all'albergatore Francesco Pertinan: «Non capisco come si faccia a dormire in una casa in cui si sentono rumori tanto spaventosi. Io ci dormii parecchie notti quando facevo statue per conto di Don Vianney». Dionigi Chaland di Bouligny, un giovane studente di filosofia, un giorno del 1838 venne a confessarsi dal curato d'Ars ed ebbe come favore di essere ricevuto nella camera stessa del santo. «Mi inginocchiai sul suo inginocchiatoio», ha raccontato egli stesso. Ora, a metà della confessione, uno scompiglio generale sconvolse la camera. Anche l'inginocchiatoio si scosse come tutto il resto. Mi alzai spaventato. Il curato mi trattenne per un braccio. «Non è nulla», disse, «è solo il diavolo». Dopo quella confessione, Don Vianney decise del mio avvenire. «Bisogna che ti faccia prete». La mia emozione era sempre estremamente viva e devo dichiarare che non ritornai più a confessarmi dal curato d'Ars. Quel medesimo Dionigi Chaland, 10 anni prima, era stato convittore presso il maestro di scuola di Ars. Alcune sere, in cui la curiosità aveva il sopravvento sul timore, andò con dei compagni ad origliare alla porta della canonica per ascoltare i rumori che si dicevano venir dal demonio. Ora quei ragazzi udirono più di 20 volte, ordinariamente al cader della notte, la voce gutturale che ripeteva «Vianney! Vianney!». Nel 1842 un gendarme di Messimi di nome Napoli, tormentato da grandi prove, volle consultare il curato d'Ars. Giunse al paese a tarda sera. Mentre verso mezzanotte aspettava alla porta della canonica, avvertì anch'egli nel silenzio l'orribile grido ripetuto più volte. La camera del santo si illuminò debolmente e il curato, facendosi chiaro con una candela, apparve sulla porta. «Signor curato, pare che vi attacchino», gridò il bravo Napolì, «ma ci sono qui io a difendervi». «Non è nulla, amico mio, è il Grappino». Così dicendo, Don Vianney prese la mano del Napolì tutta tremante. «Venite con me, amico mio», aggiunse, e condusse il difensore d'occasione in sagrestia, dove senza dubbio, come dice fratello Atanasio, le cose terminarono per il meglio. Seppi poi che quell'uomo era divenuto un buon cristiano. Il curato mi diceva di lui che per essere un gendarme non aveva eccessivo coraggio. Nel mese di marzo del 1852, una giovane religiosa della Congregazione del Bambino Gesù, Suor Clotilde, al secolo Gianna Coefè di Legny-Loire, volle confessarsi dal santo sacerdote. Venuta la sera, dovette, come molti altri penitenti, rifugiarsi nel vestibolo attiguo al campanile. Verso 1:30 di notte, Don Vianney apre la porta. La gente si precipita attorno a lui, ma egli, voltatosi improvvisamente, indica col dito quella sconosciuta religiosa rimasta timidamente nell'angolo più oscuro. «Lasciate venire quella figliuola», comanda. Suor Clotilde lo segue. Mentre il santo avanza nella navata si sentono strani rumori come grida di uomini che litigano. «Non è nulla», mormora il curato d'Ars all'orecchio della suora tutta tremante. «È il demonio che fa questo». Un avvenimento che a rigore potrebbe spiegarsi anche solo ricorrendo alle cause naturali, ma che dal curato d'Ars e dalla folla fu considerato come una aggressione più straordinaria del demonio, mise in subbuglio i pellegrini e le confermò nella convinzione che il maligno assaliva il santo anche con l'azione esterna. Era il lunedì o martedì delle 40 ore, 23 o 24 febbraio 1857. Quella mattina Don Vianney aveva incominciato a confessare più presto del solito, perché la chiesa dove il Santissimo Sacramento era esposto era affollata di fedeli. Qualche minuto prima delle 7, le persone che passarono vicino alla canonica videro delle fiamme che uscivano dalla camera del curato. Si corse ad avvisarlo quando si disponeva a lasciare il confessionale per andare a celebrare la Santa Messa. «Padre, sembra che ci sia un incendio nella vostra camera». Il curato, pure consegnando la chiave perché si andasse a spegnere, si accontentò di rispondere senza scomporsi. «Quel villano d'un Grappino non ha potuto prendere l'uccello e brucia la gabbia». Uscì tuttavia dalla chiesa e passò fra coloro che stavano sgombrando i resti ancora fumanti del suo povero letto. Non disse nulla, ma ritornò in chiesa e si recò nella sagrestia. Come è facile comprendere, nella navata si era prodotta una certa agitazione tra i penitenti. Fratello Gerolamo, lo zelante sacrestano, pensò che il curato non ne sapesse la causa e gli disse «Signor curato, è bruciato il vostro letto!» L'interessato rispose con una breve esclamazione e calmo come al solito andò a celebrare la Santa Messa. Don Alfredo Monnin, giovane missionario di Pont-d'En, che in quel tempo sostituiva Don Tocanier, partito in missione per Massigné vicino a Belley, era corso alla camera e immediatamente aveva notato i caratteri misteriosi dell'incendio. Il letto, ha raccontato egli medesimo, il baldacchino, le cortine e quanto era intorno, tutto era stato consumato. Il fuoco non si era fermato che davanti al reliquiario di Santa Filomena, posto su di un cassettone, e da quel punto preciso aveva segnato dall'alto al basso una linea retta di geometrica precisione, distruggendo tutto quanto era al di qua della preziosa reliquia e lasciando invece intatto tutto quanto era al di là. Come si era acceso senza causa apparente, così senza causa apparente si era anche estinto, ed è cosa ammirabile, ed in certo modo miracoloso, che dalle grosse cortine non si sia propagato al soffitto molto basso, vecchio e secco, che avrebbe dovuto avvampare come paglia. A mezzogiorno, quando venne a trovarmi alla provvidenza, si parlò molto a lungo di quanto era successo durante la notte. Gli dissi che l'opinione generale concordava nel ritenere quel fatto come un cattivo scherzo giocatogli dal demonio, e gli chiesi se egli pensasse che lo spirito delle tenebre ci fosse entrato per qualche cosa. «Oh, amico mio, è cosa troppo chiara per dubitarne. È in collera. È buon segno. Stanno per giungere dei peccatori». E difatti, per alcuni giorni ci fu a darsi un movimento ancora più straordinario del solito. 30 anni prima, un altro fatto, sul quale il dubbio sembrava impossibile, impressionò i preti dei paesi vicini. Nel 1826 si era sparsa fra il clero la voce che durante una missione al Montmerle il demonio aveva trascinato attraverso la camera il letto del curato d'Ars. Di ciò si rideva assai, ed erano ben pochi quelli che vi prestavano fede. Ma nell'inverno seguente ci fu una cosa più meravigliosa ancora. Predicandosi il giubileo a Saint-Rivière-sur-Mognain, il curato d'Ars fu invitato a portarvi il suo contributo, ed egli accettò ben volentieri. Fin dalla prima sera, nella canonica di Saint-Rivière, che pure di solito era così tranquilla, si sentirono rumori strani. I preti che si trovavano nella casa, alloggiati sotto il medesimo tetto, fecero osservare al curato, ma non senza rimprovero, che appena egli andava a riposo, dalla sua camera si udivano dei rumori. E il Grappino rispose che è adirato per il bene che si fa qui. I suoi confratelli, tuttavia, rifiutarono di credere. «Voi non mangiate, non dormite», gli dicevano, «avete i grilli in capo». Ma una sera i rimproveri si fecero più vivaci ed il santo non rispose nulla. La notte seguente si udì come il rumore di una carrozza molto pesante che fece tremare la canonica, cosicché sembrava che la casa stesse per cadere. Tutti erano atterriti e si alzarono. Don Granger, curato di Saint-Rivière, Don Benoit, vicario Don Chevalon, già soldato della Repubblica e ora missionario della diocesi, e perfino la domestica Dionigia Lambin. Si sentì allora, nella camera del curato Vianney, tale strepito che il vicario gridò «Si assassina il curato d'Ars!». Tutti si precipitarono da quella parte. Il santo curato era coricato tranquillamente nel suo letto, che mani invisibili avevano trascinato in mezzo alla stanza. «È il Grappino», disse egli sorridendo. «È il Grappino che ha fatto tutto questo fracasso e mi ha trascinato fin qui. Non è niente. Mi dispiace di non avervi avvisato prima. Ma è buon segno. Ci sarà domani un pesce grosso». Chi sarebbe stato questo pesce grosso? Senza dubbio, con questa espressione che gli era tanto familiare, il curato d'Ars aveva voluto indicare la conversione di un grande peccatore. Ma nonostante tutto questo, i confratelli di Saint-Rivière dubitavano ancora, credendo si trattasse di una allucinazione. Il giorno seguente fecero sorvegliare bene l'accesso di un certo confessionale, ma fino alla sera non si era notato nulla di straordinario. Senza dubbio, il buon curato Vianney aveva sognato. Ma quale non fu la felice sorpresa del pastore e del missionario quando, dopo la predica, videro il signor di Mours, nobile cavaliere, attraversare la chiesa e venire a chiedere al santo che ascoltasse la sua confessione. Quest'uomo aveva da lungo tempo trascurato l'adempimento dei suoi doveri religiosi e il suo ritorno fece profonda impressione sugli abitanti di Saint-Rivière. Dopo questo fatto, anche Don Chevalon, che era forse stato il primo a burlarsi di lui, cominciò a considerare il curato d'Ars come un grande santo. In altre circostanze, il demonio se la sarebbe presa direttamente con la provvidenza, perché anche le direttrici e le orfane furono svegliate alcune notti da rumori strani. Qualche altra volta lo spirito delle tenebre cercò di gettare il turbamento nelle loro anime. Maria Filiat racconta: Un giorno, dopo aver lavato per bene la pentola, vi misi l'acqua per fare la cena e notai nell'acqua dei pezzetti di carne. Siccome era giorno di astinenza, vuotai la pentola, la lavai e vi misi ancora dell'acqua. Ma quando la zuppa fu pronta per essere portata in tavola, vidi che vi erano ancora mescolati dei pezzetti di carne. Interrogai allora il curato che mi rispose: «È il demonio che ha fatto questo. Servite la zuppa». Il potere del curato d'Ars sui demoni. Così la rabbia di Satana si mostrava impotente. Del resto, il curato Vianney cominciava a abituarsi anche alle sue visite. «Avrete paura», gli disse un giorno Don Toccanieri, facendo allusione a quei fatti. «Ci si abitua a tutti», rispose l'amabile santo. «Il Grappino ed io siamo quasi come due compagni». E lo trattava anche come tale. Il 4 dicembre 1841, parlando alle direttrici dell'orfanotrofio, disse: «Sentite, il demonio è venuto ieri sera nella mia camera mentre recitavo il breviario. Soffiava forte e sembrava vomitare non so se frumento o altro di simile. Io gli dissi: "Vado laggiù alla provvidenza a raccontare tutto quello che fai affinché ti si disprezzi", e ha immediatamente cessato. Una notte, mentre il curato d'Ars cercava di addormentarsi, il demonio manifestò la sua presenza con grida: "Vianney, Vianney, ti avrò, ti avrò!" E il curato gli ripeté dal cantuccio oscuro ove era collocato il suo letto: "Non ti temo". Si comprende quindi come alcuni abbiano creduto di dover approfittare di questo potere che il servo di Dio aveva sopra i demoni per chiedergli la liberazione di ossessi. Monsignor De Vie lo aveva autorizzato ad usare del suo potere di esorcista ogni volta che le circostanze lo richiedessero. Anche su questo punto le testimonianze abbondano. Giovanni Picard, maniscalco del villaggio, poté assistere a strane scene. Era stata condotta da lontano dal proprio marito un'infelice donna furiosa che emetteva grida incomprensibili. Si chiamò il curato d'Ars, che appena l'ebbe vista dichiarò che era necessario condurla dal suo vescovo. «Va bene», disse quella donna, che ritrovò tosto la parola, sia pure con accento che incuteva paura. «La creatura se ne tornerà. Ah, se io avessi il potere di Gesù Cristo, vi condurrei tutti all'inferno». «Dunque tu conosci Gesù Cristo», replicò Don Vianney. «Ebbene, la si porti ai piedi dell'altare maggiore». Ve la condussero quattro uomini, malgrado le sue resistenze. Il curato d'Ars mise allora un suo reliquiario sulla testa dell'indemoniata, che rimase come morta. Poco dopo, alzata di sé da sola, raggiunse la porta della chiesa, ma passata appena un'ora, ritornò affatto calma, prese l'acqua benedetta e si inginocchiò. Era stata liberata. Per tre giorni ancora ella fu in Ars l'edificazione dei pellegrini. Una povera vecchia dei dintorni di Clermont-Ferrand attirò in modo particolare l'attenzione di Pietro Oriol, uno dei custodi del nostro santo. Questa infelice, ci narra egli, aveva ballato tutto il giorno, cantando sulla piazza davanti alla chiesa. Le si fecero bere alcune gocce di acqua benedetta e tosto, come presa da vero furore, cominciò a mordere i muri della chiesa. Suo figlio era con lei, né sapeva che fare. Allora un sacerdote forestiero la condusse fra la canonica e la chiesa dove doveva passare il santo. Questi, mentre attraversava, guardò l'infelice che emetteva sangue dalla bocca e le diede una semplice benedizione. In quell'istante medesimo divenne perfettamente calma. Suo figlio ha detto che ella si trovava in tale stato da più di 40 anni e che egli non l'aveva mai vista né così furiosa come davanti alla chiesa né così tranquilla come dopo quella benedizione. Si credeva che fosse posseduta dal demonio. Da quel giorno le crisi non si rinnovarono più. La sera del 27 dicembre 1857 un vicario di Saint-Pierre di Avignone e la superiora delle Francescane d'Orange condussero ad Ars una giovane maestra che dava tutti i segni della possessione diabolica. L'arcivescovo di Avignone aveva studiato il caso personalmente e aveva consigliato di condurla ad Ars dal Vianney. La mattina seguente la si introdusse nella sagrestia mentre il santo si preparava a indossare i paramenti sacri per la celebrazione del santo sacrificio. Ma subito l'ossessa tentò di raggiungere la porta gridando: «C'è troppa gente qui!» «C'è troppa gente?» ripeté il servo di Dio. «Ebbene, ecco che tutti escono». E difatti, ad un suo cenno, tutti partono, e più non rimangono in sagrestia se non il santo e la misera vittima di Satana. Nell'interno della chiesa non si udì da prima se non un confuso rumore di parole, il cui tono si fece presto vivace. Il vicario d'Avignone, rimasto vicino alla porta, poté raccogliere il seguente dialogo. «Dunque, vuoi proprio uscire?» chiedeva Don Biennei. «Sì». «E perché?» «Perché sono con un uomo che non amo». «Dunque non mi ami?» ribatté con sottile ironia il curato d'Ars. Un no stridente fu la risposta che diede lo spirito che possedeva quella giovane infelice. La porta si aprì quasi subito, ma già la potenza del santo aveva avuto pieno trionfo. Sulla soglia comparve la giovane, modesta, raccolta, piangente di gioia e con dipinta sul viso un'espressione di infinita riconoscenza. Ma d'un tratto, sia pure solo per un istante, si rinnova sul suo volto il segno del timore e la si vede ritornare dal curato. «Ho paura che quello ritorni ancora!» «No, figlia mia, o almeno non subito!» Difatti, quello non ritornò più e la giovane poté riprendere la sua missione di educatrice nella città di Orange. Il 25 luglio 1859, vigilia del giorno in cui il santo si sarebbe messo a letto per non più rialzarsi, verso le 8 della sera gli si condusse una donna ritenuta ossessa. Suo marito, che l'accompagnava, entrò solo con lei nel cortile della canonica e Don Biennei li seguì. Presso la porta stava Pietro Oriol con un gran numero di pellegrini. Nel medesimo istante in cui la donna uscì libera e felice, si udì nel cortile un rumore simile alla rottura violenta di rami d'albero. Ciò fece un tale fracasso che gli astanti ne furono spaventati. Pietro Oriol aggiunge che quando ritornò alla canonica, dopo la preghiera della sera, le vicine piante di Sambuca erano intatte. Vi fu un'altra infelice che non si riuscì a trascinare fino alla chiesa, tanta era la resistenza che opponeva e la ripulsione che dimostrava verso il curato d'Ars. Perciò si invitò il santo nella casa dove alloggiava mentre ella era assente. Attese il suo ritorno in una camera vicina. Naturalmente l'ossessa non era stata informata di nulla. Quando si avvicinava alla casa la sorpresero violente convulsioni. «C'è il calottino!» urlava. Anche questa volta il santo compì la sua opera di liberazione. Qualche cosa di fantastico avvenne nel confessionale stesso del curato Biennei il 23 gennaio 1840. Una donna, venuta dai dintorni di Puy-en-Velay e che fino a quel momento non aveva dato nessun segno di possessione diabolica, si inginocchiava ai piedi del santo. In quel momento una decina di persone, fra cui Maria Boyat e Genoveffa Filiat d'Ars, aspettavano nella cappella di San Giovanni Battista il loro turno per confessarsi. Costoro, anche senza vedere nulla, poterono udire tutto. Siccome la donna rimaneva muta, Don Biennei l'invitò più volte a cominciare la sua confessione. D'improvviso si udì una voce stridula e forte che disse: «Non ho commesso che un peccato in vita mia, e di questo bel frutto faccio parte a chi ne vuole. Leva la tua mano ed assolvimi. Tu la levi bene qualche volta per me, perché ti sono vicino spesso nel confessionale». «Tu, qui sei? Chi sei?» domandò il santo. «Magister caput, cioè il capo», rispose il demonio. Poi, continuando la sua risposta in francese, aggiunse: «Ah, rospo nero, quanto mi fai soffrire! Dici tutti i giorni che te ne vuoi andare, e perché non te ne vai? Ci sono dei rospi neri che mi fanno soffrire meno di te. Scriverò a Monsignore per farti partire». «Sì, ma io farò tremare la tua mano in modo che tu non potrai scrivere. Ti avrò, non sei ancora morto. Senza quella», e qui una volgarità ripugnante indicava la Santissima Vergine, «che è lassù, noi ti avremmo, ma ella ti protegge col grande dragone, San Michele, che è alla porta della tua chiesa. Dimmi, perché ti alzi così presto il mattino? Tu disobbedisci alla vestie violacea, al vescovo. Perché predichi in un modo così semplice? Questo modo ti fa passare per un ignorante. Perché non predichi in modo più elevato, come nelle città?» Le invettive diaboliche continuarono così per vari minuti. dirette al vescovo di Belley, Monsignor de Vie, al vescovo di Puy, Monsignor de Bonal, che era alla vigilia di essere nominato arcivescovo di Lione, a diverse categorie di preti ed infine ancora al curato d'Ars. Lo spirito infernale, che aveva saputo fare degli appunti alla condotta di ognuno, dovette suo malgrado, come per Gesù è detto nel Vangelo, proclamare la virtù incensurabile del servo di Dio. Severità estrema contro l'occultismo e lo spiritismo. Il curato d'Ars, il cui sguardo penetrava il mondo del mistero, si mostrò di un'estrema severità contro l'occultismo e lo spiritismo. «Che cos'è che fa girare e parlare i tavoli?» si chiese un giorno ad un'infelice ossessa che lanciava ingiurie ai passanti sulla piazza del villaggio. «Sono io», rispose la donna, tormentata da uno spirito. «Tutto ciò è affar mio». Il curato d'Ars trovava che almeno in quel giorno il demonio aveva detto la verità. Il conte Giulio di Maubeuge, che aveva dei possedimenti nel Beaujolais presso Villefranche, ma che stava parte dell'anno a Parigi, visitava con frequenza Don Vianney, di cui era penitente ed amico. Verso il 1850, la storia non è che un continuo ripetersi, erano in voga le sedute spiritiche, i medium, i tavolini parlanti. Nell'alta società parigina, anche in famiglie di fede e di pratica cristiana, ci si abbandonava a quel passatempo, ritenuto di buon gusto. Il signor Maubeuge, invitato ad una serata in casa di parenti, aveva creduto di non poter declinare l'invito ed aveva preso parte a diversi esperimenti del genere. Davanti ai suoi occhi si svolsero i soliti fenomeni. La tavola si sollevò e diede risposte, battendo sul pavimento. Il giorno dopo, lo stesso signore, avendo preso la strada del Beaujolais, si diresse ad Ars, felice in cuor suo di rivedere il venerato e santo direttore. Ma al suo arrivo lo aspettava una sorpresa dolorosa. Nell'istante in cui giungeva, Don Vianney si trovava sulla soglia della chiesa. Il conte di Maubeuge corre a lui tendendogli la mano, ma il curato, senza neppure rendergli il saluto, lo ferma sulla piazza con gesto risoluto e gli rivolge questo rimprovero con voce accorata e severa. «Giulio, fermatevi. L'altro ieri avete avuto commercio col demonio. Venite a confessarvi». Il giovane conte fu docile e promise di non più prendere parte ad un divertimento che il curato d'Ars aveva così giudicato e condannato. Qualche tempo dopo, ritornato a Parigi, si trovava in un'altra sala. Lo si pregò un'altra volta di prestarsi a quel gioco, ma egli seppe mantenere la parola data e si mostrò irriducibile. Gli altri invitati decisero di fare ugualmente, lasciando lo scrupoloso signore solo nel suo cantuccio. Intanto che si preparava l'esperimento, il signor di Maubeuge, nell'intimo della sua anima, si opponeva con tutta l'energia della sua volontà a quel passatempo. La resistenza della tavola fu tale che, contro ogni previsione, il medium dovette confessare: «Non ci capisco più nulla. Ci deve essere qui una forza superiore che rende vani tutti i nostri tentativi». Circa lo stesso tempo, il capitano Carlo di Montluisant, divenuto poi generale di divisione e morto nel ritiro del suo castello di Marsan, Drôme, poté sperimentare che Don Vianney conosceva qualche cosa dei misteri dell'aldilà. Avendo sentito parlare delle meraviglie di Ars, decise con altri tre ufficiali di rendersene conto esatto. Durante il viaggio i suoi amici stabilirono di proporre ciascuno una domanda a Don Vianney. Solo il signor di Montluisant dichiarò che, non avendo nulla da dirgli, avrebbe taciuto. Giunta l'ora del colloquio, anche il signor di Montluisant entrò nella sagrestia seguendo i suoi compagni, deciso a non dire parola. Ma uno di essi, presentandolo per primo al curato d'Ars, disse: «Signor curato, mi onoro di presentarvi il conte di Montluisant, giovane capitano che desidera domandarvi qualche cosa». Questi, preso alla sprovvista per salvare le apparenze, disse con semplicità: «Reverendo, queste storie di diavolerie di cui si parla a vostro riguardo non hanno alcun fondamento, vero? Non si tratta che di immaginazione». Don Vianney, dopo aver fissato l'ufficiale negli occhi, diede questa risposta breve e perentoria: «Amico mio, voi ne sapete ben qualche cosa. Senza quello che avete fatto, non avreste potuto liberarvene». Il signor di Montluisant, interrogato dai compagni sul significato di queste parole, non rispose, ma nel viaggio si giunse a strappargli una spiegazione. Il curato d'Ars aveva parlato a caso oppure? Che era dunque accaduto? Il capitano confessò che quando era a Parigi per i suoi studi aveva dato il nome ad un'associazione a carattere filantropico, ma che in realtà era un'associazione spiritistica. Un giorno, disse, rientrato nella mia camera, ebbi l'impressione di non essere solo. Inquieto per una così strana sensazione, guardai e cercai dovunque, ma non vidi nulla. Il giorno seguente provai la medesima impressione, anzi mi sembrava che una mano invisibile mi stringesse alla gola. Siccome avevo fede, presi acqua benedetta a Saint-Germain-l'Auxerrois, mia parrocchia, ed aspersi la mia camera in ogni angolo. Da quel momento cessò ogni impressione di una presenza estranaturale. Da allora non posi più piede in nessuna sala dove si invocano gli spiriti. Io non dubito che sia precisamente questo il fatto, già lontano, a cui alludeva il curato d'Ars. Queste spiegazioni rimasero senza commenti. Gli ufficiali cambiarono argomento volentieri. La disfatta di Satana. Le ossessioni diaboliche diminuirono di numero e di intensità quanto più il santo invecchiava. Lo spirito delle tenebre, non avendo potuto diminuire il coraggio di quest'anima eroica, disanimato, abbandonò la lotta. O forse meglio, Dio dispose che questa vita così bella, così pura, così calma in apparenza, malgrado le prove interne, si chiudesse in una profonda pace. Dal 1855 fino alla sua morte, Don Vianney non fu quasi più tormentato dal demonio durante la notte. Il sonno gli era però ugualmente assai difficile, perché cessati gli assalti del grappino, lo colse una tosse persistente che da sola bastava a tenerlo sveglio. Ciò non gli fece tuttavia interrompere le sue interminabili prestazioni per il ministero della confessione. «Purché io possa dormire un'ora o mezz'ora durante il giorno», diceva, «mi sento di ricominciare il mio lavoro». Quest'ora o questa mezz'ora la passava nella sua camera subito dopo il pranzo. Disteso sul pagliericcio cercava di addormentarsi, ma anche di questi brevi momenti il demonio approfittò talvolta per dargli noia. La giovane Maria della Martin aspettava un giorno in compagnia del signor Paget che Don Vianney uscisse dalla canonica. Era circa l'una dopo pranzo. D'improvviso, ha raccontato ella medesima, abbiamo udito grida e gemiti. «È il demonio», mi spiegò il signor Paget, «che ne fa qualcuna delle sue, mentre il buon curato sta per metterlo a posto». Infine il maligno non ritornò più, e non fu certo con rincrescimento che Don Vianney vide allontanarsi un compagno simile. Neppure lo turbò nella sua agonia, ciò che fece invece con altri santi. Ancora prima di finire la sua prova terrestre, il curato d'Ars aveva inflitto a Satana una disfatta definitiva.